Marina. Luca, come senti? Basso silenzio, segnale 7. Avamo suicidio. Ho capito. Gianfranco. E Becla. Sono a malla, sì, Claudio. Gianfranco. E dove sei Antu? Antonio. Non ti sento, sembri in banda laterale. Mi senti, Cla? Luca, mi senti? Ehi, dove sei, Antu? Sono a casa mia adesso, sono, non sono più a laterale. Ah, Rove, che fai? Non sei uscito, Antu? Attenta. Ora mi senti adesso? Non me l'ha avvitato bene, mi sa. Ti stavo dicendo, zona Sassa di Vecchio, dai, zona lì, zona Corso Vicco lì. Ah, meglio così, dai, già ti ascolto comunque, dai. Mi ascolti bene? Capa che ti ascolto, dove sei tu? Sei qua, a Pisa. Non esce, non esce, Antu. Bisogna che lo vediamo, mi sta rompendo le balle. Che è? Claudio. Oh, dice che Claudio mi sente male. Prova di strano. Ma è ferie, sì, Antu? Sì, la sera non lavoro. Luca, guarda a vedere un po', come esco adesso? Sei salito un bel, sei 9:20 quasi. Beh, perché ce l'ho sul tetto l'antenna, ce l'ho, perché quell'apparecchio mi sta girando le palle, bisogna che lo guardiamo, vedere cosa c'ha. Sta ascolto meglio, c'è più forte di segnale, dai. Vicino a Natalino, no? Sì, a Natalino gli faccio fare due giri di Smith. Scusate, siete vicini. Avanti. Ti sento male, Luca, lo sento male. Mi sentite? Ma che ci sentiamo, Claudio? Voi, tu mi senti? Sì, che ti sento. A te ti sento bene, però questa è una radio professionale, va in distorsione, Luca. La digitale fa in distorsione. Capo, forse è carbonati, sì. Cosa? Da carbonati, sì, Cla. No, sono in campagna. Capa, forte ti arrivo. Santiago 9 stai arrivando. Questa è una radio professionale americana e va in distorsione, Luca, siccome è digitale, capito? Non riesco a entrare nel menu per fare gli spostamenti. Invece non lo sento bene, Luca, sembra in banda laterale, a te invece sì. No, io vado bene, no. Cavolo. No, già sta arrivando abbastanza qua, Ocla. Sta arrivando abbastanza. Ma se c'è qualcuno che ci ha amplificati, cose così, ecco, va in distorsione, capito? Distorce, non riesco a capire come devo fare per eliminare questa cosa, capito? Questo è un Barrett 950 transceiver, tutto digitale. Che capo, ma c'è qualcuno che voleva entrare, avanti! Non lo so chi è, io ti sento ma non sento gli altri. Avanti che vuole entrare. Gianfranco, ci sei l'ascolto? La radio com'è, Antu? Col microfono normale? No, io non lo so, io la sento un pochettino, un po' così la sento. È una radio un po' particolare questa, eh? Capa. Vabbè. Importante che vada bene, Cla. Io adesso sono da un'altra zona, sono. E c'è un'altra. l'antenna sul tetto, ciao. Vabbè, dai, ok, no problem. Ciao, ma sicuramente la carbonati mi senti molto più forte. Boh, non lo so, quando andrò te lo dirò. Papà. Luca, ci sei? Usiamo il microfono. Che zona sei a tu? Chi usa microfono amplificato? Il mio è normalissimo il microfono. E capa, sono qua in zona Corso Vico, dai. Ma Luca è fuori frequenza, cazzo. Luca è fuori frequenza, non può essere, perché a te ti sento bene. Luca, in che canale sei? Al 10. Ciao, senta Luca, vertente quelle radio sono particolari, un po' di cosa, guardatene. Io lo sento fuori frequenza, non riesco a... non lo so come si fa, dai, è una radio americana questa, no? Non lo so. Boh, non lo so, no, cra. Ciao, va bene, dai, cra, io ti lascio. Ce la risentiamo. Ciao, Anto, alle prossime, ciao. Ok. Ciao, Claudio. Luca. A te ti sento bene, sto provando una radio americana d'alto livello. A te ti sento bene, a Luca lo sento tutto distorto, sembra fuori frequenza. Ma io lo sentivo bene anche a Luca, Mi sento lì. Cappa, bomba. Boh, anche ti stai andando bene. E che lo sento tutto sattolo, Ti faccio sentire come arrivi. Ti faccio sentire come arrivi lui, arrivi tutto distorto, evidentemente questa radio basta un piccolo spostamento, la tua magari è spostata di qualche hertz, anche in 27, quindi lui rileva questa cosa, capito? 27.075 siamo, perfetti Claudio. E anche questa c'è il frequenzimetro, 27.075, avanti mando la voto. Come cazzo. Luca, vieni avanti. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. Ultimo, 5, perfetto. Oi, sono stancuzzo, sono arrivato adesso al lavoro. E anche oggi fa caldo, Luca. E confermo, io dovevo scendere al mare, solo che non è più grana, domani ci vado. Hanno detto stamattina maestrale, sì, da maestrale a Scirocco. Aspetta, ti dico io quando parli, così ti faccio ascoltare, a vedere come ti arrivi. Sì, 27.075. E tu guarda la radio che te l'ho mandata, guarda la radio, la cosa seria, non è buccia di gioca. Evidentemente percepisce qualche spostamento, quindi lo manda fuori frequenza, non lo so, tu stai arrivando benissimo, anche Bombolino stava arrivando bene. Capo, tu stai arrivando bene, ti sento bene anche a Luca. Che anche se ascolto bene, tu lì hai forse troppa amplificazione. Cosa? Ho detto che forse è troppa amplificazione. Più bello così, aspetta, l'abbasso. Così va bene. Dove ho fatto lì? Ho abbassato parecchio, 1, 2, 3. Se aumento, guarda. Ora, 1, 2, 3. Te lo abbasso, dai. Dimmi, così va bene? Perfetta, tanto non c'è Tonino, non ha senso aumentarlo. Come io ho l'MB più 5, se aumento mi corre troppo alto. Lascialo così che va benissimo. Confermi, cla. Luca, ascoltati, guarda, senti a Tonino e senti come stai uscendo tu. Cosa vuoi ti dica io? Ascoltati. Facci sentire la registrazione, cla. Claudio. Eia. Facci sentire la registrazione, Luca e me. Aspetta che te la mando, anche se non si può mandare, perché sono cose private, aspetta. Ma siamo noi Te la stiamo chiedendo della nostra voce, la voce di Luca, tutto qua. Vabbè, aspetta la mano. Arriva! Oi! Vaga! Ecco, cosa? Ma quella delle misure, domani si può fare? Coppa, tutto si può fare. Ma te se mi dico posso fare quel ripiano lì con quel mobile ratto? Io invece mi sono preso un bel giorno di ferie domani e mi faccio venerdì, sabato e domenica. A Chiuggi mi ha fatto il burro, a Sassari e a Polcadorra. Sono mandata Tony, controlla a vedere. Cappa dai che adesso l'ascolto. Allora c'è colpa mia, io a te ti sento bene, Antonio lo sentivo bene. Quella radio ha qualche problema fuori frequenza e questa rileva tutto che mara Giulia. Ehi Claudio. Chi è? Amore ciao. Ah? Ah, lo senti? Male, ti sento anche a te. E sei sforzato tu di frequenza? Ui. A futtidini che stanno in baglia. Cazzo qua, boh, io ti sento male. Come? Ti sento male. No, io ti sento malissimo, non male. Questo è un altro tipo di radio col microfono normale. È una radio SDR, capito, digitale. Però se siete fuori frequenza lo rilevano automatico. Claudio. Ti faccio sentire a Tonino come arriva. Dimmi Tonino. Sembra il tipo banda laterale, gara. Sembra banda laterale perché manca sicuramente qualche non hertz ma qualche chilo essi lì sicuramente. Ma anche Emanuele sento un po' meglio di come si chiama, di Luca, però lo sento male lo stesso. A te ti sento perfettamente. Come mi senti? Come? A me come mi senti? Male? No, a te ti sento perfetto, vedi quando la radio è centrata questo non sbaglia. Ciao qua. Ciao Tony. Ciao Luca e Emanuele. Ciao a tutti. Vai Tony. Ciao Vetta. Boh, infatti ho ascoltato la registrazione, sembrerebbe andare a terra, raga. Non lo sai, avanti Emanuele. Io ti sento bene a te, Tony. Vabbè, dai, rimango così, sono andato appunto per salutare, dai. Ehi, va bene. Non mi hai detto niente, Tony, cosa te ne pare? Ma, dai, bellino. Cioè bellino, non si può vedere i baracchini, no? Questa è una radio professionale. Digita Barrett 950 SSB, entra nel sito, queste sono cose militari, cose serie, cose professionali al 100%, capito? Chi me la razza è un professionista su. Ma è quello di sopra praticamente, quello di sotto è un altro. Quello di sotto è un'altra radio, quella è tutta illuminata, la tastiera, è tutto, non ne ha, vedi che non ne ha di canali. È tutto digitale, è tutto completamente digitale, si muove tutto tramite un sistema computerizzato. Lo vedo. Vedo un po' quei tastini. Io non ci capirei nulla, è un casino, Vabbè, me l'ho letta un pochino, me l'ho studiata, ma comunque non è facile ancora, neanche per me. Non è facile, c'ha due attacchi di microfono, ho visto l'altra parte, c'ha due microfoni contemporanei a cui usare, uno su una parte e uno sull'altra. Avanti, Giulio, come ti sto arrivando di radio di segnale? 9:15 passato, la radio è ottima, va benissimo qua. Vabbè, microfono normale, però va benissimo. Va bene, sì, microfono normale su originale. Allora, senti nel sito, sono 125 watt PEP, potenza massima, e 25 watt potenza minima. C'ha tre ventole, un dissipatore, tutto stagno, tutto chiuso, ma minchia, una cosa allucinante. Cioè con 25 watt ti dà 125 di picco? No, è 125 watt proprio di portante, la portante massima, capito? La regolazione c'ha due potenze, 125 watt, non ha l'FM naturalmente, AM, USB e LSB, e 25 watt è la potenza minima. Adesso io sono con la potenza minima. Sì, ho capito, io voglio. Ce n'è in abbondanza. Vai Tonino, colleghi su questo carro armato che va in quel microfono. Carro armato. Questo signor Tarne Super Sederica, caro Giulio. Ma lo devi abbassare, Tony. Ho abbassato, guardami, così al massimo. Così l'ho abbassato, va bene così. Così lo devi tenere, già sembra che stai parlando dentro un camion in movimento. No, perché c'ho il ventilatore che fa casino, capito? Sottofondo. Dicevi giù che mi siete sopravvalutati. Allora, il carro armato è il registratore, allora ho ragione io. Per un carro armato, vicino. Carro armato. Faccio un ventilatore mezzo mannito, non ha cambiato un becco. C'è caldo, Giulio? Ho capito, va bene, no? No, perché si sentiva fortissimo. Quando aumenti si sente molto, ma molto forte. Va bene, dai. E beh, Emanuele, avanti. La buona Anna Maria Eugenio, ciao Luigi. Noi ci siamo, tu per parlare con noi devi fare la domanda in casa bollata. Vabbè, lo so, sai, in questo periodo siamo un po' assenti, però già ci siamo la sera, non so da che ora, però di assurdo già ci siamo lo stesso, Luigi. E vabbè, tutto bene? Ho capito Luigi, sì. Va bene, lavoro prima di tutto, ovvio, questo è ciò che è normale, no? Non mi stai arrivando bene comunque, mi stai arrivando abbastanza bene. Non hai comprato niente, è nuovo, stai usando quello vecchio, no? Quello del camper, per cui già va bene, oggi. Ti mando avanti Claudio, poi c'è Tonino anche, e anche Emanuele. Avanti qua. Ehi, allora, ho cambiato microfono, ma c'ho quello da tavolo, nell'altro connettore però. Nell'altro connettore, perché in uno non lo fa uscire, capito? Va bene. Poi mi dici se mi senti. Oh, Eugenio, mi senti? Non sono a casa, mi senti? Bene, mera, abbiamo scoperto anche un'altra cosa, quindi nel primo attacco non va il microfono di tavola, mentre nel secondo attacco va, questo è il Tarne più 3B. Ok, Tonino, tu mi senti bene? Ah, boh, ma se io ho cambiato il microfono invece, ho messo il mic originale, normale, per il baracchino, e non usare nello staccato. Ma penso anche con il microfono normale e la radio è abbastanza ottima. Ciao Eugenio, come te. Ciao Eugenio, ciao, alle prossime, dai, buona serata, buon tutto, vai Giulio, dimmi se mi senti bene. Benissimo, ti sento. Ciao Eugenio, ben entrato per averci salutato, per salutarci. Alle prossime, vai, fatti sentire mio Eugenio, dai, non ci abbandonare. Vai Tonino. Hai capito, tu che classe, un no certificato, a me. Questo non lo so adesso come funziona, questo microfono era per l'altra radio, e qua devo entrare adesso nel menu, collegare il cavo al computer, è una radio tutta computerizzata, completamente digitale, nulla, non ha nessun tastino che non sia appunto dal menu, capite? Non è a canali, è un 030, sintonia continua, però è tutto digitale, cammina automaticamente con dei tasti e basta. Ce l'hai vista la foto. Avanti Giulio, troppo amplificato sono. No, va benissimo così qua. No, non c'è problema. Anzi, addirittura, se aumenti anche un po' va bene ugualmente. Comunque lasciala così che è perfetto. È molto piacevole da ascoltare quella radio lì. Non c'è problema. Ma Emanuele, se ne ha fatto? Emanuele, ci sei? Ah, io mi basso tutti. Ha fatto fuori X, attimino giù. Emanuele. Comunque, Claudio, allora, tutto quello che vuoi va bene, però se stai usando un Tarne più 3, sicuramente c'è un potenziometro che abbassa leggermente il microfono, se lo vuoi passare c'è un altro come vuoi. Io ti sento abbastanza forte, chiaro e molto amplificato, tutto qua, punto, stai sempre scendo bene. Sì, beh, certo si può abbassare, il microfono si può abbassare, però sicuramente dalla radio, perché adesso era 4 come lo stavo usando. Perché era sull'altra radio, adesso l'ho messo a 2, vedi si è abbassato, ma no, non penso comunque, bisogna entrare nel menu. No, no, sempre forte. Perché bisogna entrare in minuto, lo vedo. E abbassare leggermente il coso lì. Già, sono rientrato, Cosa? Sono rientrato, sono. Buonasera, Giulio. Ciao, Antonio. Sì, Antonio, in ferie sei tu? Kappa, in ferie sono. Cioè, la sera non lavoro. Però la prossima settimana ricomincio a lavorare anche la sera. Come ti arrivo lì? Sentiamo 7 Radio 5, tu, va bene, la radio è ultima. Sì, Kappa, non sono più a Latte Dolce. Come non sei più? Ti ha finito se sì? Kappa. Arrivi bene lo stesso, Antonio, va bene, dai. Alla grande, non c'è problema. Sì, qua, va bene, la radio va bene, quella radio lì, con quel microfono va benissimo, non è un problema. Se poi ti sente troppo forte, Tonino, perché magari tra te e lui, linea d'aria, c'è brevissima distanza, per cui, però la radio va ottimamente bene, qua. No, arriva bene anche Antonio. Vediamo un pochino che sono entrato nel menu. Ecco qua. Meno due tacche dal menu, come Mickey Gaine. Va meglio, Tony? Però sei sempre forte. Ma dopo, vabbè, anche tu, la timidità della voce è verticale, quindi automaticamente te l'ha fatta la grossolana, più amplificata. Comunque, andiamo a bene, lascia così. Due tacche ho abbassato. Ho passato due tacche dall'interno, capito mi hai? Va bene, dai. Avanti Antonio, riprendi. Ma Manuele non riprende? Manuele ha fatto quelli. Kappa, diciamo che adesso l'ho messa un po' così, l'ho messa l'antenna, però dovrò metterla sul tetto poi, bene, va bene, vai giù. Sì, comunque così già vai bene lo stesso, perlomeno io ti sento bene, non c'è problema. Sì, Santiago 7, modulati Santiago 8, modulato, la radio è buona, va benissimo, non c'è problema. Sì, adesso è abbassato, adesso che sei entrato nel menu è abbassato un po' la radio, però è sempre molto molto buona. Diciamo che ho la radio piacevole per fare il salotto, no, non c'è problema, va benissimo. Vai qua. Prima adesso gli ho messo l'adattatore, ho paura di metterli il 60, perché ce l'attacco a 8 poli, capito? Non so se va bene, potrei fare danno. Adesso ci provo, adesso tolgo l'adattatore da 8 a 4 e metto il microfono diretto, l'MC60, vediamo se sono fortunato, perché io con i microfoni ho sempre un po' di fortuna, è la verità. Ok, avanti Tony, che cambio microfono, metto l'MC60, vediamo un po' se siamo fortunati. Ok, pure c'è anche questa che già va a posto a propaganda. Avanti giù. Sì, Tony, stavo bevendo un po' d'acqua quando mi hai lanciato. Sì, qua, non c'è problema, ma comunque, guarda che c'è Luca che può fare l'adattatore da radio a radio, il cavetto. Per cui no, non c'è problema, come ad esempio da Kevodo a Icon e così via. Chiedi a Luca quando lo senti che lui probabilmente, se ti serve un adattatore, un cavo adattato, probabilmente te lo può fare. Vai qua. Oh. Sto uscendo. Basta. Pronto? Sto uscendo? Sì, Claudio. E come sto uscendo? È un microfono abbastanza ultimo, diciamo. Non è molto amplificato, ma è ultimo. Adesso lo amplifichiamo, che sono dentro il menu. Allora, questo è un tasto. Allora, perché è tutto in inglese la mazza, o in americano così detto. Think for you. Eccolo qui, SCTV. Allora, attenzione, ditemi cosa succede, se no è copiaduto. Allora. È successo qualcosa? Molto più amplificato. Così è, ma buttato giù. Così va benissimo, così va benissimo, non c'è problema. Sì, potresti anche aumentarla volendo, ma se poi ti sente troppo forte Tonino, ma così va benissimo, c'è la precipitazione e va bene così. Ma cos'è, tipo K, sempre solita modulazione mia, no? Sì, sì, uguale, identica. Ecco, stacco il microfono, uguale, è uguale, leggermente più bassa del solito, però va più che bene così. No, già va bene, ecco, cosa hai detto, Tony? Sto facendo una bomba, cosa vuoi di più per la vita? Va bene, Vulcano? Teniamo modulazione, grazie. Ma è M60, ma avevo paura di metterlo, poi c'è il connettore 8, ho capito? Al connettore 8, quindi, vediamo un po' se fischia. Fischia sì. Fischia sì, se va ad aumentare fischia, va bene, dai. Negli accorgimenti che poi vedremo in seguito. Ok, ti arrivo bene, quindi anche attento. Gesù Cristo mio, qua mi arrivi fortissimo. Mi arrivi perché sicuramente non so dove sia la campagna, ma cazzo, qua sei proprio a bomba. Davanti a te sono, se ti giri le spalle sono davanti a te. Registrato il break di Gianfranco, sono davanti a te. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buonasera. Sono entrato solo adesso perché sto mangiando gelato. Questo è il Barrett 950 con l'MC60. Così è in posizione praticamente in e così è in posizione out, Gianfra. Oh, è quasi perfetto. Va bene, anche in posizione out? Beh, da me sì. Tieni presente che io lo sto ascoltando con un altro di quella razza, però molto, molto più moderno, cioè più moderno, più recente. Vanno bene. Oh, sai qual è il problema? Che poi ti faccio salutare. Allora, il problema è che se c'è una massima mi manda in distorsione la modulazione, anche a te lo fa? No, ho capito. Se c'è una massa, hai detto? No, se c'è qualcuno che esce troppo forte di radio, me lo manda in distorsione, capito? Sembra in banda laterale. No, sono tutti così. Tutti, l'utilizzo che fanno quelli è con apparati, cioè a parte che la M proprio non la usano, ma poi è molto stretto, c'ha dei filtri fissi quasi stretti, perché quel tipo di comunicazioni sono per andare lontano, mica sono per far sentire i sottofondi, capito? Quindi sono tutti stretti, tutti in banda stretta, perché meno li sentono e meglio è il loro lavoro. Ah, ecco, adesso ho capito il perché, dai. Allora, avanti per i saluti a Gianfranco, prima Giulio, poi Antonio e Tonino, vai. Ok, ciao Gianfranco, ben entrato, ti sento bene, alla grande. Avanti Antonio. Salutoni Gianfranco. Ciao Gianfranco, ben entrato. Ciao Tony, avanti. Ciao Tonino e ciao a tutti gli altri, ciao Giulio, buonasera a tutti. Sì, è così, sono fatti così. Ti volevo dire una cosa, me la sono scordata. Oh, la vecchiaia. Ah sì, io sto andando con questo che c'ha 4 watt, i picchi non lo so se sono positivi o negativi, era un po' fermo come anche l'altro che c'è sotto, tardi lo provo infatti, perché farvi stare fermi oltre che tanto non va bene, si guasta la rasura, riprendi Claudio. Sì, adesso sto usando il microfono normale per fartelo sentire, quello normale praticamente, dai, che già lo conosci. Dall'altra parte invece c'è l'MC60, da una parte c'è il microfono normale e dall'altra prende l'MC60. Com'è la modulazione normale? Meglio l'altro. Si capisce, però non è buona, non è buona. Quanto sta... Ma la sta dando la potenza o no? Cosa Gianfra? La potenza. potenza la sto dando? Alla grande. Allora, in scala 200 siamo 10, 20, 30, siamo a 35 watt. 35 watt è la potenza minima, la potenza alta sono 120, modulati 140. Ah, la faccia del bicarbonato. Quindi vabbè, anche ottimo, dovevi dire. Cosa hai detto? Che è ottimo. Sì, glielo dico che è ottimo, alla grande. Vai Giulio. Ok. Sì, claro, beh certo, quando metti il microfono a mare non ha niente a che fare con questa, e questa è tutta un'altra musica, però diciamo che anche quell'altra già va a mettere bene, perlomeno io ci sento bene lo stesso, per cui diciamo che potrebbe servire ad esempio per fare stavolta la notte, così, sai, nel silenzio e nel dormiviglia delle persone, anche con la radio là può andare benissimo, non è un problema. Ma forse l'avevi abbassata anche a menù, però, perché inizialmente col microfono normale me la ricordo più forte, un pochino più forte, ho qua. Sì, l'ho abbassata leggermente, ma metto il microfono normale, a me non mi piace tenere queste cose, uso questo qua in out, già va bene lo stesso. Vai Tony. K, io si meno ho messo di nuovo il microfono al tavolo. Anto, tu come mi ascolti? No, benissimo Tony, benissimo. Benissimo, e tu lì a San Camillo come mi ascolti? 920, Radio 5, non è una delle fonti forti come il radio, però è ultima. K, no, la radio è normale. Cavolo. Ma sto modulando, c'ho l'antenna sul tetto io adesso, ci arrivi forte qua. Ma non so adesso con gli altri come arrivo. Che zona sei tu? Zona Corso Vico, lì sono. A voglia che arrivi bene, cavolo. Sai che sono un roccio di Cuburumi, non sono con chissà quale antenna, perché per il momento mi lascio questa, poi me ne metto un'antenna seria, avessi schirreggia. Già va bene, già va bene. Avanti Gianfra. Sì Tony, io ho capito giusto, avanti Gianfra, perché per me è incomprensibile quasi, perché questo è un apparato che sta proprio sulla frequenza volumetti, quindi professionale, ma la radio è talmente espansa che si sente boom, boom, boom, boom, boom, tanti rumori di fondo che la rende quasi incomprensibile, infatti non ti stavo riconoscendo, però è l'apparato proprio che fa così, perché le modulazioni troppo espanse le taglia tutte sui lati, perché è a banda stretta questa, quindi non accetta le modulazioni che vanno oltre il 100%. Sicuramente anche Claudio fa la stessa. Confermi Claudio? Si conferma, infatti se aumenta, se mette il microfono da tavolo lo sento un po' incasinato, mentre invece con l'altro microfono sento benissimo. Vedi, ho staccato adesso il ventilatore, il rumore di fondo era quello già fra. Ha molto migliorato, però rimane sempre molto molto amplificata, capito? Intenderci, questo è di quelli che si usano con microtelefono, quindi figurati, anche se moderno, però l'utilizzo quello è. Allora, in poche parole, se io ho una Fiat 500 e non mi piace più, mi compro un Ferrari, non posso andare col Ferrari alla velocità della Fiat 500, tanto male il mando il 500. Se ho preso un signor microfono, mi piace anche uscire come si deve. Questa è la mia ideologia, poi. E tu lì, ma non è quello il problema, esci bene lo stesso se lo abbassi. È che uscire tutto bumbuglionato non è bello. Se invece tu lo tieni leggermente più basso, l'amplificazione c'è, così è troppa, hai capito che stai dicendo Gianfranco? Anche io questo ce l'ho uno, adesso, se lo metto come poco fa è troppo alto, mi hai detto tu, no? E quindi conviene tenerlo così. Vedi, adesso ho abbassato, com'è adesso? 1, 2, 3, prova. È una tragubba per me. Perfetto anche per me. Ma non è bassa, non è modulazione normale, è modulazione. attaccato la sega al nastro per quello, e lui aveva in funzione la sega al nastro e anche la smedigliatrice, per cui è per quello, ma toccarsi, perché gli ho detto che aveva il carro armato, perché era alto, io la sentivo forte con tutti i rumori di fondo, ma comunque va bene lo stesso, perché a me figura di valore che mi tagliasse. Come vi dicevo, mi va sempre bene, o forte o piano, o sporco o pulito, per me va sempre bene. Tanto sono discorsi che abbiamo fatto decine e decine di volte, per cui ripeterci sempre non mi sembra nemmeno caso. Va bene così anche per me, Tonino, non c'è problema, alla grande. Riprendi, Antonio. Stavo provando, ma mi sta girando le palle, devo farla controllare. E tu, vabbè, niente parolacce, tu, li abbiamo eliminati. Avanti Gianfra. Sì, diciamo che anche se piano piano stanno eliminando molti baracchini che ricevono larghi, diciamo, perché ci hanno ricevitori scadenti, oramai tutti gli apparati moderni sono con bande abbastanza strette, proprio perché non devono né disturbare in trasmissione ma soprattutto ricevere entro limiti accettabili. Quelli li sentono bene, non so quali apparati, non so se Giulio sicuramente se lo ricorda. Se ne ricordi quei portatili sul canale 14 che ricevevi un colpo solo tutti e 23 canali? Tanti e tanti. È così, quelli hanno quei ricevitori tipo quelli, per quello si sente sempre bene anche se si da un canale all'altro. Però quelli moderni no, quelli ti tagliano. Ti prendi il cloud? Beh, un pochino. Mi sentite meglio adesso, sempre col microfono normale? Un po' così, è meglio l'altro che è perfetto. L'MC60 è migliore, qua. Oh, l'MC60 è migliore di questa. Vabbè. Manca paragone. È una questione di impedenza. Vediamo un pochino se così ha migliorato. Migliorato così. Sì, per me va bene lo stesso, anche così. Comunque anche il tanner andava benissimo mio qua. Tu li hai voluti provare tutti, però anche il tanner inizialmente avevi messo il tanner, no? E andava benissimo ugualmente, no? Non c'era problema. La radio quasi la solita di sempre, diciamo, dai. Va bene. E io come sto scendendo la radio, Gianfra? Anch'io ti arrivo bombardato? No, è sempre la tua, però tu c'hai una radio normale, capito? È sempre la tua. Non cambia niente. Più o meno. Ok, va bene. Interessante non spaccare gli orecchi a nessuno. Quello che è interessante. Va bene, facciamo girare. Tony, avanti. Io mi sono messo il microfono in mano e così mi ho messo distanza e me l'ho tagliato col ventilatore acceso, però non c'è rumore di sotto. Sto parlando perché mi fa male un po' la piena, oggi ho provocato anche un po' troppo. Per questo mi sono preso anche il giorno di fine per domani. Allora, ma come faccio bene? È sempre domenica. Riferimento a poco fa Giulio, ma no, non è a nastro, ma bensì a catena. Poi Claudio, per quella questione e per quella persona ti do solo il nome Antonello, tutto qui per domani sera. Vabbè, ci aggiorniamo telefonicamente, dai. Non penso che sia un problema quello. Ok, vediamo un pochino. 1, 2, 3, 4, prova. Ehi, cazzo, qua non c'è modulazione. Aspetta che tiriamo su il Michigan. Aspetta un attimo. Claudio, ecco qua. Ho tirato sul Michigan, meglio va. Mi sembra un uomo di 80 anni. Ma non stai usando qua. È una radio americana con microfono normale, non è tolgo piedi. Devo cercare di farla uscire come dico io. Se no mi si girano i pibilissimi a me. Dico, che antenna stai utilizzando? Che brutta radio qua. È meglio l'MC60 qua. Lascia l'MC60. Adesso ti sento bene. La Mantova, quella che ho tolto da Gianni, quella che ho tolto da facendo il locker room, l'ho riparata e me l'ha dato a me e l'ho messa qua, dai, non c'è problema. Ciao Manuel, riprendi che cambio microfono. Sì, andare. E beh, Torino, poi gli altri che siamo entrati in ruota, chi c'era? Giulio, Antonio e l'altro, Vittorio mi sembra, Vittorio Giovera. A te, Tony. Gianfranco, cosa dice il giovane? Avanti Gianfranco Emanuele. Sì, ciao Emanuele, buonasera, sono ascoltato. Sì, Claudio, è un po' cambiata in versione pensionata. Ok, anche dove ho passato, non me lo ricordo più. Riprendi Tonino. Capa, Emanuele, tratto. Che ti ha scambiato per Vittorio Giove. Ma Manuel, ma da che zona stai modulando? Stai arrivando forte qua. Ciao Antu, frate Roce, Antu. Antu, ci ha messo la canna alla pesca. Se no che mi arrivi forte. Prima ero vicino a te, ero, Non so come li senti lì alla Teroce. Capo, mi stai arrivando forte qua, C'ho anche un'attaccata alla pianta, Antu. C'ha le pere vicino. Papà, quando mi senti lì? Prima mi sentivi quasi a fondo scala, adesso come sta arrivando? 9:10, 9:15, radio 5. Allora, 80 massimo, 130 watt, 120 watt modulati, MC60, io guarda così. Ma fai che sei in varia? Anche me ne va a lavorare anche la terra, anche là. Basta, mi sono rotto le palle, dai, le scatole, dai. Sì, tira e molla, aiuto, toccati i pulsanti, resettato, vai. Adesso 120, 130 watt modulati proprio, modulati e MC60, forza. Giulio. Va bene. Oh, Antonio, se hai intenzione di metterti l'antenna, fatela costruire da Luca, che lì dove sei tu fa benissimo, lì in Corso Vico, guarda, è a meraviglia, c'è anche Gianni Lubrofetta lì, che è secondo con un antennino, non ha niente, una mini boomerang, ed è alla grande, veramente molto molto bene. Vai Antu. Che capo, io sto usando qua, ma la Forma 27 che avevo a casa sto utilizzando, però l'altra mia. Che già esci, già anda. Siamo un pochettino di stazionare l'altro giorno, gli ho rimisurato il capo, gliel'ho rifatto, ma la bomba. Vabbè, ma è un bastone di scopa quello. Quando la metti sul tetto, metti un'antenna che va in maniera definitiva, senza stare lì poi a toccare, a ritoccare. Ti fai costruire un'antenna da Lucca, ti fai costruire, tanto risparmi anche, per cui te li fa bene, non è un problema. Avanti, Giocla. Sì, volevo chiedere a Claudio, volevo passare un po' su, un po' giù, per provare la banda laterale. Claudio. Puoi provare la banda laterale? Se vuoi ci vado io anche. Come vuoi? Claudio, forse sta svitando qualcosa. No, non ne ho. Posso provare l'FM, ma la banda laterale no. Sì, aspetta un secondo. Ok. Continuate, sto facendo una corsa. Manuele. Ehi, attore. Bustine. Bustine? Ciao, non me la date fastidio. Ehi, andate, dai. E beh, fa effetto, Tony. Fa effetto con la bustina. Era già pigliata, ma... Non lo so, adesso vediamo. È una prima. Passato giù, passato. Se non me l'ho fatto mai camminare. Mamma mia, non me lo fa mentare. Ma dov'è? Non me lo fa mentare, per carità. Già l'ho avuto anch'io, io non lo godo, vuol dire. Per carità. Va bene, dai. Pensiamo a cose più allegre. Avanti, già fa. Sì, riprendi un attimo che mi hanno trattenuto. Sono un attimo alfabeto. Ok, d'accordo, già fa. Dopo se vuoi provare in banda laterale possiamo anche provare, non c'è problema. Avanti Tony, comunque Tony ti devo dire una cosa, il microfono amplificato come qualità di radio è più bella, questo sì, però se lo metti troppo alto allora si sente troppo rumore ambiente, rumori e balle varie, anche le farfalle che passano lì da te in campagna si sentono, però come qualità di radio è senz'altro più pulita, questa è scontato, basta metterla a 2 e tu sei un signore o Tony. Ma è confermato perché con tre api mi viene male, diciamo, che io sto però sdraiato che fa male la schiena anche a me. Tutti acciaccati, dicevano me, o Giulio, fatalizzai. E quindi niente, quando sono seduto allora mi va bene con il microfono da tavola, l'ho provato non lo fa, ma avevo trovato di schiena, mi sono sdraiato, ho capito il microfono. Tutto qua. Ho capito Tony. Ti viene meglio, stai meglio, almeno non hai problemi di tenere il microfono in mano. No, io sono andato anche stamattina, sono andato per potermi prescrivere la prosecuzione della terapia che dovevo fare e devo dire che sono riuscito ad ottenere la visita che dovevo fare la faccio questa, prima da Orizzano. Da Orizzano mi hanno passato a Nuoro, da Nuoro sono riuscito a farmela passare a Sassari e la devo fare lunedì prossimo, il 31 agosto, lunedì. E sono contento, ma quando ho fatto 300 km di macchina mi hanno detto va bene così. Va bene, dai. Avanti Emanuele è andato a prendere la Bastiglia a Buluedo. Si prende Antonio. Ma non hai più nessuno. Tutti pariti. Ehi, ehi. Sì, non sto uscendo, se non stai uscendo, perché non stai uscendo, aspettate un secondo, non stai uscendo, non stai uscendo, non stai uscendo. Ecco qua. Subito, problema. 3.60, hai visto? Come lo tocco io, lui se ne prende subito. Così già va bene. Hai detto Bruce? Hai detto Bruce, ho un microfono. Mazza, la mazza, sempre la mazza a terra. Ma è la mazza, quindi è mazza, no? Casino, e vabbè. A lui le piace la musica, di vino Claudio. Solo qualcosa, mi sarà. E glielo so io che cos'è, adesso glielo rimetto e ciccia. Oh, entrando un'aria, cavolo, sulla finestrella qua sopra, cavolo, sta entrando un'aria adesso, ah. Ehi, aria, ma vabbè, vabbè. Vabbè dai, non mi piace così a me, dai. Fatemi sistemare qua perché a me modulare con questi fischi non ho mai modulato io con i fischi, con i fiaschi sì, ma con i fischi no, dai. I fiaschi sono più belli, si conferma, però io devo uscire bene, no, non è come dice lui, dai, bianco per me, a dopo. Capatela. Claudio, ti puoi spostare che lo proviamo in banda laterale? Se sta fischiando, lo già provo. Devo tenere. Devo fare una modifica prima. Capito? Ho passato la domanda qua in banda. Capito? Sì. Ok, va bene. Anch'io cambio apparato, vediamo un po' cosa succede. Ehi, dai, continuate, sennò blocco tutto qua. Già ritorno dopo. Allora, io faccio un po' di corix che mi devo tra gli anni e riposarmi un pochettino. Se ci siete dopo già rientro, vi ascolto. Ma proseguo tutti. Ciao Antonio, ciao Giulio, ciao Manuele, ciao Claudio. Ehi Antonio, ci sentiamo dopo. Dove sta prendendo la strada? Mi sono chiamato a Giulio, vai. Ok, ciao Tony, fate io una bella pennichella adesso, dai. Ci sentiamo magari più tardi, quando c'è più fresco. Ok. Ok, farà le pigliende. Ok. Capito mi hai, Anto, quando decidi di metterti l'antenna, che è un'antenna praticamente tipo canale a pesca, così non è molto visibile né niente. Leggera, leggerissima e vanno benissimo. Interpella a Luca e parli con lui e risparmi anche, così non devi spendere e soprattutto non devi aspettare che ti arrivi l'antenna, capito tu? Oh, lo giusto, il QRX un attimo che faccio queste cose, a dopo. Ok, d'accordo. Ecco. Per il momento giù mi accontento di questo, faccio un po' di spese, non posso affrontare spese. Vediamo un po' poi di mettere una penna seria. Adesso che lo posso fare. Ok, no, ma quella che ti costruisce Luca già è un'antenna seria, tranquillo. Io ce l'ho di quel tipo lì ce l'ho. Ho visto che funzionano bene, funzionano alla grande, leggerissima, si piega molto quando c'è il vento, questo sì, però non succede niente, non si spezza, non è un problema, va bene lo stesso. Sì, io devo cambiare radio per vedere un po' come fa, che era tanto ferma, devo fare un controllo per vedere un po' com'è. Ti chiamo qua Giulio tra poco, è appena come può mantenere. D'accordo, la chiama, che già sono qua. Claudio, avremmo un bonifico alla Juve, ma compara un po' con quei giocatori. Attenzione Giulio, mi ricevi? Sì, che ti dicevo, come no? Sì, già fa, ti dicevo. Rispetto all'altra, com'è questa? Beh, intanto il segnale questa qui è più forte. Di radio più o meno come volume di radio è sempre uguale, più o meno, forse un tantino di più questa. Però di segnale questa è più forte, è 9 abbondante. Sì, c'ha poco, diciamo, cosa arriva a 8 watt, credo, dipende da qualcosa qua come è regolato. L'altra ne ha 4, però non c'ha la regolazione di potenza, capito? C'ha spaccati, di quelle che l'intermedio non ce l'ha. Questa ce l'ha, ma non mi ricordo dove. Comunque l'importante è che anche questa stia andando bene. Come ricezione è un pochino più rumorosa, mi sembra, ma più rumorosa come rumore di fondo, o in che senso, Giada? È come rumore di fondo, si sente sull'attore, poi non so se sia in banda o meno, perché bisogna guardare i controlli. Ok, ho capito. Vabbè, ma se volevi provare in banda possiamo andarcene, non c'è problema, in attesa che rientra Carlo o Claudio. Magari su un altro canale, però, perché qua magari disturbiamo. Come vuoi, dimmelo tu. Quindi, cosa dici, 15? Sì, va bene, per me va bene. Aspetta che guardo qual è la frequenza e poi mi sposto la sintonia continua. Scusa un attimino, 27-135. Ok, andiamo? Ok. Avete cercato? C'è qualcuno? Eccomi qua. Io ci sono, Anch'io non so se è rimasto qualcuno qua. E adesso ci dovrebbe essere sempre Claudio che stava facendo quella regolazione. Adesso lo chiamiamo, Claudio. Si vede che è indaffarato magari in un altro canale e ci sta ascoltando con le cuffie. Ci sta ascoltando adesso fin quando non si regola la radio come crede, come vuole lui, no, non è contento. Io lo conosco, fa così. Oh, va bene, non è che va bene. Ok, ecco che siamo a Dama. Vabbè, dai. Vediamo se c'è rimasto qualcuno. C'è qualcuno su 10 che vuole entrare? No, sembra che non ci sia nessuno. Tutti quanti se ne sono andati al mare. Vabbè, Tonino si vede che si sta facendo la pennichella. Emanuele sicuramente anche lui. E Antonio penso che sia a casa della fidanzata, perciò allora ha altro da fare. Ok, ognuno c'ha i suoi impegni. Stavo cercando il coso per attaccarcela, ma non mi ricordo più dove il buco, anche per tappare. Sì. Peccato. Che cosa se posso togliere, c'è un bellissimo modello, un paio di civettori di quelli, perché c'ha all'interno il vetrino a porco, quello che c'ha le vitti, quasi quasi l'ho svitto, perché è sporco all'interno, credo. Sì, beh, certo, è possibilissimo. Tu pensa che la polvere riesce ad entrare anche dentro l'orologio, figurati un po' se non entra dentro la radio. E vabbè, caro piano, ti ci metti e te lo fai, te lo pulisci per benino e poi lo rimonti e sei a posto. C'è un pochino, vedo che c'è un pochino di vento da nord. Adesso saremo a vedere, bisogna vedere quanto ce n'è rimasta come riserva, ma suppongo che fra un po' arriveranno anche le giornate di pioggia, perché ormai, come si dice il proverbio a Sassari, è una parata di gandarini.